ci schiavizza. La vita è la mia erba, io la porgo come rizla. Non sono sazia, grida la mia anima, s'adagia come lamina su questa tela morbida. Sovente naviga la mente nel mentre si sente di rompere cangiante tra la gente. Essere più eclettici, molto meno statici, e mentre tu partecipi a questo gioco scemo fatto di sensi estetici, io penso agli ellenistici, logici, a tutti i geni scomodi. Costruisco nuvole in cieli volubili, belli da vedere ma impalpabili per chi non sa volare. Non so fare nulla, so solo sognare. Sono ciò che sono, non mi amare. Costruiamo nuvole, l'arte è cosa inutile, appiglio inaffidabile che crolla dinanzi alla folla. Costruiamo nuvole, la gente si fa giudice, reputa inutile ciò che resta fuori dalla ressa. Io credo nella pace, credo nel miracolo, credo che non esista ostacolo. Chiamami cavernicolo, disperso nel cunicolo di un tempo futuristico. Parlo di sto secolo, è ovvio, non avere dubbio. Io annebbio con nuvole chi tappa il mio labbro. Sono io il fabbro, forgio speranze, sfoggio apparenze su queste cadenze. Carenze d'affetto che soffro, giudicavo sciocco, ma ogni artista è solo il doppio. Quindi non mi stoppo, ma grido la mia rabbia, faccio fagotto e la mia mente viaggia. Costruiamo nuvole, l'arte è cosa inutile, appiglio inaffidabile che crolla dinanzi alla folla. Costruiamo nuvole, la gente si fa giudice, reputa inutile ciò che resta fuori dalla ressa. Sono libero come petali di nuvole, leggero come sughero, dedali di favole, cavalco mille pagine, dipingo la mia immagine su tegole, vivendo dentro boschi come memole. Girasole pallido, sotto un sole torrido, senza radici vegeto, scrivo come Asimov, quando la mia sorte è un passepartout che blocca porte, bambola voodoo che porta morte oltre la mia coltre. E adesso, costruttore del diverso, e adesso, costruttore del regresso, e adesso, l'universo che calpesto, bambagia vaporosa, chi mi bacia non mi sposa, vivo cieco come moda, giungla palutosa sugli allori. La mia anima riposa. Sono un cavaliere senza scudi, sognatore, accendo lumi nei frantumi della mia pace di sensi come blumi. Costruiamo nuvole, l'arte è cosa inutile, appiglio inaffidabile che crolla dinanzi alla folla. Costruiamo nuvole, la gente si fa giudice, reputa inutile ciò che resta fuori dalla ressa. Sì, e questa è la nostra vita. Costruiamo nuvole, scriviamo testi, facciamo arte. Facciamo cose che non servono, ma che arricchiscono lo spirito. Stai a sentire mondo, stai a sentire mondo.